Huma Kushivo, Red Iki Karigi, No Nivo, Kuiranjo, Kurigibiti, Haskara Kupira no, Kuirantihaku, No Nivo, No Arribira Itiatipangu, No Hivin Tuti, Ikashvi, Hatia Bichukuyo Bayurama, Mukushuntanivo Aki, Haskaribiaki, No Atipangu, Yomuraki, Itanribi, Wayaki, Arus Viruskima. Ihiniro, Retin Parino Hakunsha Mangino Yuita, Haukayarin Rek Isum, Yapa Bitirus Yui Marimia. Haskara Marigi Honivo, Red Riki, Nivo Kuyo Tangane Oinjo, No Kuirano Isho, Noa Kupiakanti, Auki, Ono Virushirabo, Nivo Ita, Maibo, Ramia Kantima Kupi. Atian Suabangai Kupi Kaina to Tahawakibo. Kupira Ibukane, Uchuka Ani, Empresa Yahunibon, Hato Ani, Makinabon, Icha Queen, Hutubo Ita, Wiso Kuimbo, Nato Nutinoa, Zaina Naikupi. No me hatisubi, upi biti atipanginato rek ikanaikupi. Ikama, natura kupie bukanei, hauronuki, mua nivo kuyo virushurakanaikuburus. No ikabidibi, mua ani hivivo, yamaira ikaimurus. Ihiniro, no humankumburke kikianki no ni hakuanki kuiranabu. Haskara ikutiambira, no regni kupia yamikai. Haskara mariki, iti atipangu, maton humanko, ani karitira aki, iamar uitsa ani tubo, akaskana inguparira, mato akanti atipangu kopiaki. Ihiniro, hauti kuriki shamangayame, no arregni kopiate atipangu. Unanti mapaririki, rama shukubira muskoguska haukibo, oini pare ikane, kopiare bukane, hauti icha hahu tukui, ointanampari. Hatian hau kirika bukayaki, no sunanti atipana rek no humanko higiti kupi. Rekumparira mato, mai kirikaya iti haku. Mato ratupumpari ti haku, hauti hivikaeri hahutu kuimbu biei iso, mato nimura hatu atiriki kikin kupi. Hatura mato atipangu kurikia honibubuta, iamas mato buta mua tutukirana honibubuta. Hau kuskadami iti atipangu, noa mai kirika umapari ikas. Mai kirika uma isura mato hau kupi biti atipayamagu. Apun kuirana ni ikaibume rek higite atipangu. Nato haugira mato uintihake apu butanribi. Dred higi kutianra mato yamas apon hatibi hauki sunantihake hankuriki mniabubuta. Hunibo, ninkakama. Dred nira no akinsha mayamai nato nutu ramira mitengo. Haskaribi aki no haskatas nikan tuti. Dred rigi ochuke haskatas tuti hatokuriki mniay. Haskadarigi, hanra mniay nikuyu tengo budus. Hanra uinay nato hutu kuinbitidus. Utsa hawiki uraha uyamai. No konkai bobo, utsa unsaribi hawikira eneno uinai. Hakuriki ahuniwara no ni kuira nikai. Hawa maiminote atipangu, hatongkuna kiska no ayamaitia. Wayakash itanghivi ratiasa no arameti atipangu. Utsa tiamo shobu akasi. Uinparika honibo matora hakuma gishinanei. Red rapuguta maparigi. Iribate atipangu, mato haskatas kurigeti. Hakunsha mangi huibu sineas. Hakunrigi, rikun parira matohin mangi rikabo sineanka iti haku. Redbu tan tegaskin. Haskari biakin keira, noa unan hunibon hakunsha mangi noa ninkama iti haku. Han haska tashbun noa tutibu, no humabu ramiki namabi. Haskari biakin keira, noa unan hunibon hakunsha mangi noa ninkama iti haku.